Diario di un giorno di Cristina Carpinelli. Le campanelle nelle scuole italiane non suonano più da giorni e i ragazzi e i bambini sono chiusi in casa. La scuola è entrata nelle cucine, nei salotti, nelle camerette, grazie alle videolezioni. Ma questo, che dovrebbe essere un diritto per tutti, di fatto non lo è. In alcune famiglie non esistono tablet e PC e un unico telefono talvolta viene usato da più fratelli per seguire le lezioni. Gli appelli a donare si susseguono e ogni comune si sta facendo carico di sanare questo divario. In un mare di braccia tese ci sono storie poi come quella di Mattia, 16 anni. Storie che aiutano tutti noi a tenere aperto il cuore. Le lezioni Mattia le segue con qualche difficoltà attraverso il telefono. Quando arriva a lui il tablet, grazie alla Fondazione Mission Bambini, propone che non venga dato a lui, ma a un altro ragazzino, un suo amico, in difficoltà. Allora, mi chiamo Mattia, ho 16 anni, faccio la seconda superiore, mi sono trovato bene in questi 2 anni allo scientifico e vado bene a scuola, diciamo. Mi hanno detto che tu sei molto bravo a scuola, allora volevo chiederti cosa è successo nella tua vita quando è scattato il divieto di uscire di casa, come seguivi le lezioni e cosa è successo nei primi giorni? Allora l'impatto è stato un po' forte perché da uscire tutti i giorni a restare ormai quasi un mese a casa, anzi un mese passa a casa, all'inizio era molto difficile seguire le lezioni perché comunque tutti i professori mandavano il loro codice e io, avendo soltanto il telefono, dovevo cambiare codice ogni volta, uscire, rientrare dai siti e a volte non stavo dietro tutte le lezioni, quindi un po' di pezzi li perdevo e dovevo contattare i miei compagni di classe con WhatsApp per dire cosa avevo dimenticato, cioè gli dicevo cosa avevo scritto e loro mi dicevano poi cosa dovevo aggiungere, se c'era tutto e così. E quindi mi era un po' scomodo, un po' tanto scomodo ed ero un po' in difficoltà. Però dopo un po' mi ci sono abituato, anche se comunque le cose sono restate difficili, e mi serviva un altro strumento per comunque star dietro più facilmente alle cose, a tutto. Quindi Mattia, tu non avevi un PC, non avevi un tablet e seguivi le lezioni col telefonino, però a un certo punto ti è arrivato il tablet, quindi uno strumento che ti era veramente indispensabile. Eppure quando ti è arrivato, invece che prenderlo e basta, tu hai pensato che andava dato a un tuo amico che secondo te stava facendo più fatica senza il PC. È vero? A primo impatto la notizia è stata scioccante perché di mattina mi è arrivata una chiamata dicendomi che mi avrebbero regalato un tablet per restare dietro gli studi e avevo pensato di darlo a mio amico perché comunque era più indietro rispetto a me, comunque io avevo, cioè ormai mi ero quasi quasi abituato perché ormai era passato tipo 2-2 settimane e mezzo da quando c'è stata questa cosa del virus e dovevamo stare a casa. Lui era più in difficoltà di me e glielo volevo dare a lui, cioè volevo cedere questo tablet a lui perché come strumenti era più indietro rispetto a me. Senti, adesso questo tuo amico, sai come sta andando? Sai se anche lui ha avuto un tablet? Per il momento non so ancora niente, però mi sa che si sta trovando come me, diciamo. Mi sa che qualcosa gli è arrivato perché comunque da come lì ci stiamo parlando mi dice che la situazione però sta migliorando rispetto a come era prima, quindi penso di sì. La generosità di Mattia e la generosità di tanti altri bambini e ragazzi che a modo loro si stanno mettendo in questa prima linea, in aiuto, come ci racconta Flaviana Robbiati della comunità di Sant'Egidio. Sofia è una bambina italiana di 12 anni, fa la prima media, molto brava, molto diligente, che conosce 2 sorelline rom perché la sua mamma fa parte della comunità di Sant'Egidio e conosce la famiglia. Sofia ha chiesto alla sua mamma di poter essere lei che aiuta le 2 bambine rom con le videochiamate a fare i compiti, e così tutti i pomeriggi lei, in maniera molto diligente e precisa, aiuta queste 2 sorelline con tutti i momenti di gioco, di risa, di simpatia che si creano in un piccolo gruppo di ragazzine, e questo dimostra quello che a Sant'Egidio si dice sempre, e che nessuno è così povero o così piccolo da non poter aiutare gli altri. Storie di generosità e di gentilezza in questa puntata interamente dedicata a tutte quelle famiglie in difficoltà che stanno facendo davvero ancora più fatica di prima a sopravvivere. A Milano, Padova, Torino, Napoli sono stati distribuiti centinaia di tablet grazie al progetto di sostegno allo studio portato avanti dalla Fondazione Mission Bambini. Alberto Barenghi è responsabile dell'ufficio progetti. Il nostro intervento è in un contesto mondiale. Noi sappiamo che oggi sono un miliardo e più di 1,5 miliardi di bambini, l'89% di tutta la popolazione di studenti a livello mondiale che è ferma, non sta frequentando la scuola. In Italia sono circa 10 milioni gli studenti delle scuole di ogni ordine grado, quindi sono 10 milioni, un esercito di bambini, ragazzi, giovani che in questo momento sono a casa. Circa il 25% delle famiglie con figli minorenni non dispone di device o di connessione per collegarsi a lezione a distanza o per rimanere in contatto con educatori e operatori. Un altro dato interessante è che soltanto il 16% delle famiglie senza un titolo di studio dispone di apparecchi elettronici come un tablet o un PC. Questo ci fa capire quanto la differenza, e quindi il digital divide, come si dice in gergo, questa disuguaglianza in termini di accesso alle tecnologie può creare ancora più problemi all'interno di un meccanismo di distanziamento sociale e di isolamento delle famiglie. Noi interveniamo soprattutto nelle località di Milano, di Torino, di Padova, di Napoli e di Catania, dove abbiamo stimato nei nostri territori di intervento che sono circa la metà delle famiglie che in questo momento hanno bisogno, cioè dall'inizio dell'isolamento, hanno bisogno di un potenziamento della propria strumentazione tecnologico-informatica e di connessione a rete internet. Quali sono i progetti che avete messo in campo? Cioè, oltre al potenziamento tecnologico, quindi oltre alle strutture, dare il tablet o un potenziamento della rete, che cosa state facendo? Nelle città che ho elencato prima, quindi Milano, Torino, Padova, Napoli, Catania, noi avevamo già una rete di scuole e di partner di enti non profit che su specifici territori, per esempio su Napoli siamo a Scampia, a Catania siamo a Librino, a Milano siamo soprattutto nella periferia nord della città, quindi in alcuni territori abbiamo già una rete strutturata di scuole e di soggetti non profit che hanno poi dei centri di aiuto allo studio strutturati e funzionanti fino ovviamente a questa situazione di emergenza che ha imposto la chiusura anche dei centri di aiuto allo studio. Noi ci rivolgiamo soprattutto a quei bambini e ragazzi che o hanno difficoltà economiche o a queste difficoltà economiche si aggiungono anche difficoltà dal punto di vista scolastico, quindi bambini con bisogni educativi speciali, bambini con disabilità, gli stranieri che hanno necessità di essere seguiti bene dal punto di vista della lingua italiana. Quindi non ci limitiamo soltanto ad acquistare dei tablet, dei PC o attrezzare la casa con una connessione internet, ma ci occupiamo poi di tutta la parte di accompagnamento, quindi e verso le famiglie ci stiamo attrezzando anche per dare un sostegno di tipo psicologico per quelle situazioni che hanno una necessità di accompagnamento più emotivo legato al tema della segregazione sostanzialmente, quindi della costrizione in casa che porta comunque a degli squilibri talvolta anche relazionali interni alla famiglia, conflittuali, che possono avere bisogno di un accompagnamento di un esterno. In prima fila ci sono anche gli insegnanti come Fabio Rocco. Sono un insegnante di scuola primaria presso la scuola Giovanni XXIII di Padova, che è all'interno del 7° istituto comprensivo. L'utenza della scuola dove insegno è un'utenza che è tipica di alcune realtà di periferia delle città. La sensazione più forte che sto vivendo in questo periodo è quella di trovarmi a confronto con il grande affanno e il grande disagio che i bambini e a tratti anche le famiglie per motivi diversi stanno provando. Siamo di fronte a una situazione nella quale ci sono alunni che fanno fatica ad avere i dispositivi idonei per fare didattica a distanza, ci stiamo trovando di fronte a situazioni nelle quali i genitori devono colmare un vuoto che a tratti non riescono a colmare, sia dal punto di vista delle competenze educative, sia dal punto di vista a volte linguistico, banalmente. C'è un'emergenza anche che sta crescendo legata al verificarsi di situazioni di forte disagio, anche di tipo alimentare, nelle quali alcune famiglie che prima erano su una soglia borderline dal punto di vista della sopravvivenza, in questo periodo sono sprofondate anche in una condizione di indigenza. Questa del coronavirus è un'esperienza che ha cambiato, probabilmente cambierà la vita di tutti noi in un modo o nell'altro, per alcuni anche un modo per mettersi alla prova, usare, come diceva lei stesso, no, nuovi strumenti, anche scoprire di non farcela. Però forse la cosa più grave potrebbe essere il creare un divario ancora più netto tra chi è veramente in difficoltà economica, sociale, culturale e chi non lo è così. Il rischio che si crei in questo periodo un autentico gap formativo tra chi ha gli strumenti, le possibilità e le risorse per seguire la didattica a distanza e chi non li ha è sicuramente un tema enorme, perché se è vero che non eravamo probabilmente pronti ad affrontare un'emergenza come questa e ad affrontare la stessa didattica a distanza, che al di là della parola implica tantissime cose diverse, modalità diverse, atteggiamenti diversi da parte dei docenti e modo di recepire insomma questa situazione da parte delle famiglie. È indubbio che la differenza che si nota e che noi non ci possiamo permettere di lasciare a se stessa tra coloro che possono e coloro che non possono rischia di diventare qualcosa di difficilmente colmabile in futuro. Credo che ci sia una necessità di andare incontro alle famiglie in difficoltà in questo periodo, altrimenti davvero alcuni bambini e alcuni ragazzi rischiano di essere abbandonati a loro stessi. Forse, così come per la sanità, va affrontato anche il tema delle reali risorse che la scuola pubblica ha avuto a disposizione nel corso di questi anni. Parlo anche degli insegnanti di sostegno o della scuola a tempo pieno, che è stata via via svuotata del senso vero, no? del tempo pieno. Forse andrebbe fatto un ragionamento con l'esperienza di oggi, visto che un'emergenza la sta vivendo anche la scuola ed è un'emergenza reale, come state mettendo in luce tutti quanti voi che lavorate all'interno. Il tema dell'investimento nella formazione sia un tema che apre grandissime opportunità in questo paese, proprio perché fino adesso è un investimento che ha visto tantissimi vuoti, tantissime situazioni nelle quali non ci si è posto per tempo e con un po' di lungimiranza il problema che un disinvestimento nella formazione significava in qualche modo un impoverimento del tessuto non solo, come dire, educativo, ma anche sociale delle nostre realtà. Spesso le scuole sono i luoghi in cui si formano socialità tra alunni, tra genitori, sono luoghi in cui le comunità vivono e sono anche i luoghi che possono permettere di garantire quello che sancisce l'articolo 3 della Costituzione, insomma il fatto che si possa arrivare a un'uguaglianza sostanziale attraverso la possibilità di studiare, di emanciparsi e di crescere dal punto di vista della propria professione. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra poco. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. In Italia 10 milioni di bambini e ragazzi sono a casa da scuola a causa del coronavirus. Di questi il 25% non dispone di strumenti consoni per seguire la scuola a distanza. A questo tema, già di per sé estremamente grave, si aggiunga anche che molti studenti che usufruivano di servizi di assistenza allo studio hanno dovuto rinunciarvi, come ci racconta Alberto Barenghi, responsabile ufficio progetti di Fondazione Mission Bambini. Qui a Milano, tra i beneficiari che stiamo sostenendo, c'è anche un gruppo di ragazzini di terza media, appunto della classe terza di scuola secondaria di primo grado, che stava seguendo prima dell'emergenza un percorso di scuola bottega, cioè un percorso che di alternanza di frequenza tra scuola, frequenza presso un centro educativo, con un protocollo d'intesa firmato con la scuola per favorire, sono ragazzini a rischio, quindi che fanno difficoltà a stare in classe, che hanno un po' forte rischio di abbandono scolastico, il percorso favorisce il conseguimento del diploma di terza media, quindi per loro in qualche modo era sono quei ragazzini che già facevano fatica a scuola, il fatto di non frequentare più la scuola o altri centri li porta ancora in una situazione di ancora più di emarginazione, di gap formativo e scolastico forte, no? La cosa che mi ha stupito è che questo gruppetto di, appunto, sono 13 ragazzini nel quartiere Niguarda, siano stati loro i primi a fine febbraio, inizio marzo, a chiedere agli operatori e ai docenti della scuola bottega di poter continuare a fare lezione a distanza, quindi sono stati proprio loro a chiederci di continuare a seguirli e di stare con loro. A me la cosa che colpisce di tutto questo, anche parlando con alcuni docenti che faticano un sacco a tenere lezioni a distanza per le difficoltà che hanno le famiglie nel gestire i device elettronici, ma anche per altri problemi più di tipo relazionale, cioè non è la stessa cosa che essere in classe, cioè è totalmente diverso ovviamente, perché è come se tu entrassi con le videocamere nelle case dei tuoi studenti, cioè vedi le camerette, vedi i letti, eccetera. Quindi per un docente è una situazione totalmente nuova, e anche per i ragazzini, ma quello che io trovo molto bello e anche talvolta commovente è questo sforzo da parte dei docenti, degli educatori, ma anche questa disponibilità dei ragazzini a mantenere una relazione educativa, didattica, che in questo momento è fondamentale, è forse più importante che ricevere dei compiti a casa o fare delle attività didattiche precise o ricevere dei voti, adesso senza nulla togliere poi l'importanza delle attività didattiche, però penso che insomma sia comprensibile anche il mio discorso, cioè la relazione di cui i ragazzini hanno bisogno è di qualcuno che li ricordi, che gli tenga la mente fresca su cosa è la scuola, su cosa è un ambiente educativo e didattico esterno alla casa. Flaviana Robbiati è una maestra ed è da anni con la comunità di Sant'Egidio in prima linea nella difesa del diritto allo studio dei più fragili economicamente, una fragilità che diventa spesso esclusione sociale, soprattutto quando si parla di famiglie rom. Le famiglie all'inizio hanno fatto un po' fatica a capire la gravità della situazione, ma una volta che gliel'abbiamo spiegata hanno cominciato a rispettare le regole delle ordinanze in maniera molto, molto seria, molto ferrea. Però purtroppo si sta verificando quello che temevamo, e cioè un essere sprofondati in una serie di problemi economici, cioè una povertà totale che ha colpito quasi tutte le famiglie, dove pochissimi sono rimasti ad avere una tutela dello stipendio, mentre la maggior parte degli adulti ha perso il lavoro, ha perso lo stipendio e è in gravissime difficoltà proprio a mettere in tavola qualcosa. Ciò nonostante riescono a dedicare tempo e attenzione ai figli per i compiti. Noi intendo la comunità di Sant'Egidio, comunque cerca di supportare in maniera forte le famiglie, un po' in tutti gli ambiti, anche nell'ambito scolastico, per cui cerchiamo di aiutare i bambini in questa nuova scuola virtuale che adesso c'è. Sia dal punto di vista tecnico, tecnologico proprio, cioè i bambini, i rom sono bambini di famiglie povere che non hanno i computer, i tablet, tutto viene fatto sul cellulare, allora un po' stiamo cercando computer e tablet e poi comunque aiutiamo a cavarsela anche col cellulare. Ci danno una mano veramente preziosa molti volontari, studenti universitari, ma anche persone più grandi che non conoscono i nostri bambini, ma che ci hanno detto, beh, se volete, con delle videochiamate, così mi collego a un bambino e lo aiuto a fare i compiti. E così stanno nascendo collaborazioni che poi vanno anche al di là dei compiti, perché poi questi volontari trovano il modo per far ridere questi bambini, leggono storie, giocano insieme con la videochiamata. E in questa situazione si vede proprio in maniera molto lampante qual è la scuola bella, la scuola di cui l'Italia può essere orgogliosa, e qual è la scuola che invece mostra le sue pecche, perché ci sono ragazzi che vengono seguiti in maniera eccellente dai professori e ci sono ragazzi che invece sono stati abbandonati dalla scuola, cioè che non si collegano, non riescono a collegarsi, ma nessuno li va a cercare, oppure che non hanno gli strumenti tecnologici adatti, ma i professori non si occupano di questo e danno continuamente insufficienze, 4, 5, mortificando i ragazzi. Ecco, ci sono situazioni belle e brutte. Don Milani diceva che non c'è peggiore ingiustizia che fare parti uguali tra disuguali. E qua si vede qual è la scuola che riesce a trovare soluzioni anche creative. Vorrei fare l'esempio di un ragazzo di prima media, un po' più grande degli altri, ha 2 anni di più, un ragazzo sordomuto che è arrivato in una scuola media vicino a Quartoggiaro da pochissimo, da appena prima che iniziasse l'epidemia. I professori in pratica non lo conoscono, ma e hanno tutte le difficoltà legate al fatto che questo bambino non sente e non parla, per cui la videolezione con lui non è possibile. Beh, si sono inventati la chat WhatsApp coordinata da una professoressa, in cui sono presenti tutti i professori, la mamma del ragazzo, l'insegnante di lingua dei segni, e insieme stanno facendo una scuola personalizzata per il ragazzo, che tutte le mattine ha il suo appuntamento con i professori dalle 9 alle 13 e svolge le attività scolastiche come veramente non avremmo mai potuto sperare, con un grande livello di professionalità da parte dei professori. Tutto questo a noi fa capire qualcosa di molto, molto importante. Si sta giocando una grossa partita con la scuola virtuale e nei confronti dei ragazzi più fragili, più poveri, degli ultimi. Chi è in grado di seguire il percorso didattico di questo periodo attraverso le lezioni virtuali e tutto quello che questo comporta, o perché ha gli strumenti adatti, oppure perché ha anche dei genitori che lo possono supportare, andrà avanti. Gli altri resteranno indietro, gli altri si perdono, e quindi la forbice sociale che riguarda tutto l'apprendimento si allargherà sempre di più. Quando usciremo da questo periodo e tutto tornerà normale, ci accorgeremo che i ragazzi poveri saranno diventati ancora più poveri, e che tanta fatica che abbiamo fatto in tanti anni per cercare di tenere il passo per quel che si poteva con i compagni e con la scuola, intendo proprio l'istituzione scuola, sarà compromesso dalle difficoltà attuali di cui spesso la scuola non si fa carico. Diario termina qui, grazie per averci seguito, se volete potete scriverci a diario@radio24.it. Un saluto da Cristina Carpinelli. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it.